Va bene, grazie a tutti voi per la partecipazione innanzitutto, ma io inizierei col dire che il libro che presentiamo oggi è un libro difficile da incasellare, è un libro difficile da etichettare. Può essere letto sotto tanti angoli di visuale e questa complessità è andata addirittura accrescendosi, e vi spiego perché. Il testo originale di questo storico russo, Yuri Alekseevich Buranov, già di per sé è un testo, ripeto, che si presta a molteplici chiavi di lettura, un testo complesso. Ne propongo qualcuna in maniera molto sintetica. Innanzitutto è un'opera storiografica, non c'è dubbio, quindi affronta, attraverso la falsificazione degli ultimi scritti di Lenin, affronta un periodo storico cruciale per la formazione dello Stato sovietico e per l'ascesa del fenomeno che definiamo stalinismo. Cioè affronta quell'arco di tempo che va grosso modo dagli ultimi mesi del 22 all'inizio del 23. E vedremo perché sono un arco di tempo importantissimo, cruciale. Sono gli anni, oltre ai grandi eventi storici, sono gli anni, ed è anche questo un grande evento storico, sono gli anni in cui Lenin di fatto esce di scena. Nel maggio del 22 ha il suo primo ictus, che lo lascia per un po' di tempo semiparalizzato, e inizia intorno a Lenin a formarsi un cordone sanitario con l'intento ufficiale, formale, di proteggerlo, ma con l'effetto anche di isolarlo, di controllarlo. In questo periodo però Lenin continua ad agire, continua a cercare di intervenire con tutti i limiti della sua infermità e di questa situazione, e detta, perché ormai può dettare, tutti i documenti di cui parleremo in realtà sono dettati da Lenin, ha uno stuolo di segretarie, alcune che raggiunsero anche una certa notorietà in questo ruolo. E quindi è innanzitutto un'opera storiografica che inquadra un periodo, da questo angolo di visuale, cioè della vicenda degli ultimi testi di Lenin e la loro sorte, affronta un periodo storico fondamentale. Un altro punto di vista, ed è un po' curioso, che potrebbe anche essere letto come un giallo filologico. Mi spiego. L'autore Buranov non solo segue le falsificazioni, ma per motivi molto seri cerca anche di spiegarle, di capire chi c'è dietro. Ma chi c'è dietro anche materialmente ai cambiamenti, ai testi originali, quali delle segretarie è presumibilmente quella che ha scritto sotto dettatura quel documento, perché questo, lo vedremo, ha un'importanza. Cercare di capire non solo la manipolazione, ma come è avvenuta la manipolazione. E talvolta deve ricorrere persino alle perizie calligrafiche per cercare di capire quel particolare documento, che percorso, che parabola ha avuto. E anche uno studio sul linguaggio del potere, perché vedrete che alcune parole diventano estremamente importanti, o da rimuovere o da aggiungere, ma diventa che in quel frangente, in quel passaggio cruciale della storia sovietica, alcune parole, alcune frasi, alcuni concetti acquisiscono un significato dirompente, enorme. Potrebbe essere anche letto come come un capitolo della storia dei falsi, e nella loro funzione politica. Ad esempio, ne parlavamo prima, Luciano Canfora l'ha affrontato Buranov in quest'ottica, inserendo in una storia di falsificazione millenaria, da Tucidide in avanti, anche prima. Dicevo che la complessità diventa ancora maggiore. Nel momento in cui noi, con questa edizione, che è la prima in italiano, è un testo che ha un percorso, una storia abbastanza strana. L'autore è russo, era russo, lavora sugli archivi un tempo segretati del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ha accesso a questi archivi segreti e trova questi documenti e pubblica per la prima volta gli esiti di questa ricerca nel 1994 per la Prometheus Books, quindi una casa editrice statunitense. Noi, proponendolo in lingua italiana, abbiamo aggiunto al testo di Buranov, che è questa ricerca sugli archivi segreti, diciamo, dell'ex Unione Sovietica, ha aggiunto un notevole storico come Paolo Casciola, che purtroppo oggi non può essere presente con noi, a cui va la stragrande maggioranza, la gran parte del merito per questo lavoro, ha aggiunto un importantissimo apparato di note, che non c'era nel testo originale, delle appendici che contribuiscono a inquadrare questa tematica, e soprattutto direi un saggio introduttivo che fa di questo libro direi qualcosa di diverso per certi versi rispetto al testo originale, che si limitava, ripeto, allo studio, alle ricerche di Buranov. Quindi questo testo diventa ancora per certi versi più complesso, più ricco anche di spunti e di elementi di interesse. Tanto per fare un esempio, come può essere letto anche da un angolo di visuale che va oltre la tematica strettamente della manipolazione degli ultimi testi di Lenin, nel saggio introduttivo di Casciola, ve lo consiglio, personalmente l'ho trovato interessante, c'è un paragrafo in cui lui inquadra la vicenda della falsificazione degli scritti di Lenin in un contesto più ampio, c'è un paragrafo in cui affronta, ad esempio, la vicenda della Georgia menscevica. Ed è molto interessante, perché in genere la storia sovietica, oggi forse più che mai, è un po' condizionata da stereotipi, da luoghi comuni, da semplificazioni. L'ottobre 17 c'è la rivoluzione, nasce l'Unione Sovietica. Non è assolutamente così, è un processo molto più travagliato, più lento, più contraddittorio, più conflittuale. In realtà l'Unione Sovietica nasce fino al 22, l'URSS, c'è un lungo passaggio in cui c'è anche ovviamente la guerra civile, ma nel 18, questo è l'esempio che ci interessa, nel 18, nel gennaio 18, dopo che i bolscevichi sciolgono l'assemblea costituente, la Georgia, questo stato caucasico, si separa, si dà un governo autonomo con una maggioranza menscevica. Ora, è interessante perché spesso la lettura che oggi va per la maggiore ed è la guerra civile russa con tutta la sua ferocia, con tutta la sua violenza, la sua carica di violenza inedita, è dovuta al salto di qualità dei bolscevichi. Quindi loro sono gli interpreti di questa rinnovata violenza, la loro concezione dura, spietata della presa del potere, a dare questo surplus di violenza, di durezza, di spietatezza allo scontro politico. Tanto per fare un esempio, declinata in Italia e portata in Italia, fu utilizzata dal fascismo emergente questa tesi. Quindi la violenza squadristica, la violenza fascista era la reazione all'esportazione in Italia del bolscevismo. Quindi era una reazione a questa violenza nuova che la concezione leninista immetteva nella storia. Ora, basta leggere questo breve ma denso paragrafo che scrive Casciola sulla base anche di testi in lingua originale, da questo punto di vista, per capire che in realtà non era così. Cioè, le condizioni della guerra civile sono condizioni feroci e direi senza limiti per certi versi, anche da una parte come quella dei menscevichi, che oggi in genere viene considerata come un'isola democratica. Quindi moderata, bravo, cioè, se avessero vinto i menscevichi la storia avrebbe preso un'altra piega, invece purtroppo hanno vinto questi cultori del potere assoluto, i totalitarismi, eccetera, eccetera. Ebbene, leggetelo questo breve paragrafo, veramente denso e significativo, e vediamo una parabola estremamente interessante. Nel 18 si forma questo governo che la prima cosa che fa inizia a reprimere in maniera feroce i bolscevichi georgiani. Incomincia a trattare con la Germania, a permettere l'ingresso delle truppe tedesche in Georgia, con una singolare concezione anche di sovranità nazionale, sbandierata in un certo momento, invece messa tra parentesi in alto. Quando poi l'impero Reich tedesco collassa, si alleeranno e faranno entrare in Georgia il corpo di spedizione britannico, sempre con la finalità di attaccare la Russia bolscevica. Non solo, sono documentate anche azioni di repressione etnica da parte del governo menscevico, delle popolazioni minoritarie. Il Caucaso è abbastanza un puzzle da questo punto di vista, delle popolazioni minoritarie, dei villaggi in cui abitavano etnie minoritarie. E direi forse ancora più significativo il comportamento che ha la Georgia menscevica nei confronti delle armate bianche. All'inizio del 19, l'armata dei volontari cosiddetta, cioè l'esercito bianco contro il rivoluzionario del generale Denikin, è all'offensiva, sta vincendo, e i reparti sbandati dell'Armata Rossa chiedono di poter entrare e di rifugiarsi in Georgia. gli viene negato, vengono sigillate le frontiere della Georgia democratica, menscevica, e vengono lasciati in balia delle truppe vincenti dei bianchi. E sapete benissimo in quelle condizioni cosa significava questo. La guerra civile ha dei repentini cambiamenti, diciamo, delle sorti del confronto militare. Alla fine del 19 la volta invece i denichi di essere in ritirata, questa volta le porte della Georgia si aprono, accolgono le truppe sbandate di Denikin, che vengono di fatto aiutate, e gli viene consentito di ricollegarsi alle ultime forze controrivoluzionarie attive, che erano quelle del barone Wrangel in Crimea. È interessante, quindi, se la vediamo in quest'ottica, diventa più complesso il giudizio su questa fase di guerra civile, oltre, ripeto, gli stereotipi e le schematizzazioni, in ultima analisi borghesi, diciamo, chiamiamole col loro nome, che oggi vanno per la maggiore. Però, arriviamo al dunque, io ritengo che forse una chiave di lettura importante per approcciare questo testo, ed è quella che ci ha spinto come rivista Prospettiva Marxista a fare lo sforzo di pubblicarlo, è che è la storia, l'inizio di una storia, dello scontro tra due partiti. Ovviamente due partiti non in senso formale, due partiti nei fatti. Li vedremo estremamente squilibrati come forze, ma due partiti. Uno è un partito nuovo, che non dirà mai di essere un partito nuovo, anzi rivendicherà la piena continuità con i precedenti rivoluzionari, con l'ottobre, ancora prima, con la storia della socialdemocrazia russa. Ma è un partito nuovo, gigantesco, che si sta formando in tempi rapidissimi, sull'onda di profondi mutamenti sociali, economici, politici. E lo possiamo definire per comodità, per convenzione, la realtà è molto più complessa ovviamente, nei suoi legami con le dinamiche sociali, lo possiamo definire il partito di Stalin. Quando dico che questo partito si sta formando in questi anni, non è una questione così astratta, si sta coagulando un sentire comune, no, si sta formando una struttura reale, concreta, materiale. Vi fornisco un dato presente nel saggio introduttivo di Cascio. Nel giugno del 22, attenzione alle date, maggio 22 c'è il primo ictus di Lenin, nel giugno 22 Stalin mette mano a un provvedimento senza informare Lenin, ovviamente molto malato e debilitato. Questo provvedimento riguarda 15.500 funzionari, alti funzionari, a cui vengono riservate delle condizioni eccezionali, mai prima viste. Oggi. Ora, noi viviamo in un'epoca, in una società, in cui quando sentirete quello che vi dico vi verrà quasi da sorridere. Siamo abituati a livelli di corruzione politica di ben altro spessore. Però attenzione prima di sorridere, perché stiamo parlando di una realtà come quella sovietica uscita dalla guerra civile, che aveva conosciuto la fame. Ma non la fame in senso lato. No, no, la fame, cioè le città russe durante la guerra civile avevano patito la fame, cioè popolazione denutrita, morti per fame, carenze alimentari gravissime. Il partito addirittura stabiliva la dieta per i suoi dirigenti in base alle calorie necessarie per svolgere il loro lavoro. Cioè, era quella la situazione della Repubblica Russa Sovietica. E adesso vi illustro questi nuovi provvedimenti che nel giugno 22 Stalin concede a 15.500 funzionari. Un salario, uno stipendio minimo che è tre volte il salario di un operaio. Questo farà ridere, ma consideriamo il contesto storico. Un pacco dono periodico in cui è presente carne, tabacco, burro, zucchero e sigarette. Terzo aspetto, che francamente mi ha colpito di più, la possibilità, previo consenso del segretariato generale, la possibilità di fare vacanze all'estero pagate in rubli oro, cioè in moneta solida, spendibile. Interessante. Si sta formando qualcosa, si sta formando una cerchia, e non irrilevante, con nuovi rapporti di fedeltà, nuovi criteri. Ma forse il dato, che da questo punto di vista effettivamente costituisce un'accelerazione forse definitiva verrebbe da dire, è la cosiddetta leva Lenin. Lenin muore nel gennaio del 24 e tipica operazione di un certo tipo di utilizzo delle grandi figure rivoluzionarie, quale modo migliore per tradire, per distruggere la sua opera, che non intitolarla a lui, quel provvedimento. Viene lanciata la leva Lenin, cioè nuovo reclutamento di membri di partito. Ciao, ciao, ci siamo. Ciao, ciao, ciao. Con questa leva, in un tempo brevissimo, tra febbraio e maggio 24, Lenin è appena morto, quindi febbraio, vengono inseriti nel partito 240.000 nuovi membri, bypassando completamente quelle che erano fino a quel momento i criteri di selezione, i criteri di ingresso, i filtri che erano stati posti per l'ingresso nel partito. E se teniamo presente gli scritti di Lenin e gli ultimi scritti di Lenin soprattutto, abbiamo ben presente quanto fosse importante per Lenin non solo preservare il partito da queste iniezioni di nuovi soggetti non sperimentati, ma addirittura come ponesse con frequenza addirittura il problema dell'epurazione, laddove si vedeva che nel partito, come dire, un profilo umano diverso stava emergendo e stava danneggiando gli obiettivi politici. 240.000 di botto. L'operazione ha talmente successo che viene ripetuta nel 25 e nel 27. È ovvio che in questa operazione finiscono diluiti, messi in minoranza, messi in difficoltà, emarginati chi? I militanti precedenti, quelli che erano passati invece attraverso tutto un processo di selezione e di formazione. Quando dico è un partito nuovo, cioè, è esattamente questo. È un partito difficilmente comparabile con quello che era prima, nei fatti, nelle persone, nella carne, nel sangue. Però questo processo di costruzione del partito nuovo è impensabile, è inimmaginabile, non poteva riuscire se non accompagnato da un processo di distruzione. Era insieme costruzione e distruzione di quello che c'era prima, di quello che ostacolava, di quello che impediva questa formazione di questo partito nuovo. Non mi dilungo, sono cose ormai risapute sugli orrori della repressione stalinista, le grandi purghe, ripeto, sono ormai patrimonio abbastanza comune. Però vorrei fornire solo un dato che presenta anche questo nel saggio introduttivo, perché io qualcosina ho letto di questa materia, ma mi ha comunque colpito questo dato, non tanto per i numeri, che ho letto anche di peggio, ma per i criteri, per la logica che c'è dietro. Nel luglio 37, c'è un'ordinanza, è già partita, le grandi purghe sono già partite, qua siamo in un'altra fase, non siamo neanche nel 22-23, qua ormai la macchina di repressione staliniana va a mille da questo punto di vista. Nel luglio del 37, l'ordinanza operativa dell'NKVD, l'NKVD è la polizia politica, uno dei nomi che assume la polizia politica in Unione Sovietica, emette alle varie sezioni del partito sparse per la Russia degli obiettivi da raggiungere. Quindi, degli obiettivi, cioè dei punti, no? Degli obiettivi a priori. Cosa sono? Sono la gente da uccidere e da deportare. Quindi non c'è un processo, per quanto farlocco, per quanto finto, che sfoci in una condanna. Viene dato l'ordine a ogni componente territoriale del partito di arrivare a quei risultati. Quelle quote, potremmo dire. A te spettano queste quote, a te quest'altra. Ad esempio, per la regione di Mosca si pone come obiettivo l'arresto e l'immediata fucilazione di 5.000 elementi antisovietici particolarmente pericolosi. E invece la deportazione, che non è che fosse una soluzione tanto più bella in molti casi, la deportazione di 30.000 elementi antisovietici meno attivi. Questi numeri sono per la regione di Leningrado 4.000 e 10.000, 4.000 giustiziati e 10.000 deportati, e per la Repubblica Bielorussa 2.000 giustiziati e 10.000 deportati. Perché cito questo dato? Potrei citarne anche di più agghiaccianti. Perché dà l'idea di una costruzione. Qua non c'è nulla di improvvisato, di viscerale, di umorale, no? Ma il tiranno pazzo, nevrotico, paranoico. No, no, qua c'è la distruzione di qualcosa perché lasci il posto a qualcos'altro. È un piano, è come si costruisce qualcosa, si distrugge quello che impedisce questa costruzione e così ci si muove in questo caso. Il punto è che dietro questi numeri così freddi, così asettici, c'erano vite umane, non solo vite umane, ma quello che ancora ci interessa di più a noi, percorsi politici importantissimi. E non parlo delle massime vette del potere bolscevico, ma c'erano militanti la cui biografia agli occhi nostri di oggi appare eccezionale, e eccezionali non erano, erano i militanti che finiscono in questo tritacarne. Faccio solo un esempio, uno solo, presente nel messaggio introduttivo. E si tratta di Vladimir Elizbarovich Dumbazde. Il cognome, lo capirete subito, è georgiano, è caucasico, Dumbazde, e non è un caso che sia georgiano, lo vedremo. E questo qua, questo militante, è un po' una biografia esemplare per certi versi, di chi erano questi 5.000, questi 10.000. Dumbazde aderì al POSDR, cioè al Partito Socialdemocratico Russo, Operaio Socialdemocratico Russo, il partito di Lenin, dei menscevichi e dei bolscevichi, nel 1900. Fu poi bolscevico della prima ora, gravemente ferito durante la guerra civile, divenne presidente del Soviet di Tiflis e membro dell'opposizione di sinistra fin dal 1923. Oltre ad aver contratto la tubercolosi, nel 1926 aveva subito la paralisi di entrambe le braccia come conseguenza della sua ferita di guerra. Dumbazde fu espulso dal partito nel 1927 in quanto membro dell'opposizione unificata, che è quando Zinoviev e Kamenev si uniscono a Trotsky, dell'opposizione unificata, e arrestato poco tempo dopo. L'anno seguente venne condannato a 3 anni di deportazione in Crimea. Nuovamente arrestato nel dicembre del 1934, si vide infliggere nell'aprile del 1935 5 anni di detenzione, che scontò negli isolatori di Chelyabinsk, Verkhneurask e Suzdal, insomma, la via crucis delle deportazioni. Insomma. Scomparve per sempre all'età di 61 anni, in una data imprecisata del 1938, nella terribile prigione di Suzdal, o mentre veniva trasferito nell'inferno di Vorkuta. Vorkuta è una regione dell'Artico russo dell'estremo nord. Questo era un bolscevico della prima ora, invalido di guerra, della guerra civile della parte dei rossi. Ripeto, non è neanche il più famoso, quello che poteva vantare i meriti maggiori, era uno dei tanti militanti che devono lasciare il posto a qualcosa di nuovo dal punto di vista dello stalinismo. In questo contesto, arriviamo, se vogliamo, più al cuore della problematica di Buranov, non deve stupire, non può stupire quindi, che in questo contesto avvengano le manipolazioni dei testi di Lenin. Cioè, è perfettamente coerente che lo scontro tra questi due partiti è talmente forte, arriva a questi livelli, che questo è assolutamente logico e conseguenziale. Buranov ne tratta due, sostanzialmente. Due con particolare dovizia di particolari, di approfondimenti. E secondo me sono importanti, anche politicamente hanno un loro significato. Il primo è un testo dettato da Lenin il 23 dicembre 1922. Questo testo è interessante, è l'inizio della cosiddetta lettera al congresso. In questo testo Lenin... prendiamo dalla fine verso l'inizio, così è ancora più chiaro. Questo testo alla fine verrà pubblicato ufficialmente in Russia solo dopo il 1956, la destalinizzazione, e viene pubblicato, fa parte delle opere complete, eccetera, eccetera. E Buranov però fa una scoperta. Negli archivi del Comando Centrale trova un manoscritto. Attenzione, questi testi venivano pubblicati dopo il 1956, sulla base di un dattilo scritto, che a sua volta derivava da un manoscritto. Burano trova il manoscritto. E il manoscritto salta sulla sedia perché è diverso, in alcune parti piccole ma significative, dal dattilo scritto su cui poi dopo nel 1956 verrà poi tratto il testo da stampare. Perché dicevo un giallo filologico? perché Buranov cerca di capire anche chi l'ha scritto questo testo. E la sua ipotesi, che lui ritiene essere molto solida, è che sulla base anche di perizie calligrafiche l'abbia scritto Nadezhda Aliulieva. Chi è Nadezhda Aliulieva? È la moglie di Stalin. Attenzione, non arriviamo a facili conclusioni. Allora l'ha falsificato, esattamente il contrario. Questa donna, figlia di un vecchio rivoluzionario russo, non era per nulla un docile strumento di Stalin. Anzi, la sua storia personale, la sua biografia è tragica. Ancora giovane si suiciderà, secondo alcuni testimoni, dopo una furibonda e pubblica lite con il marito, con Stalin, e dopo che Stalin, secondo alcuni, le ha gettato in faccia un posacenere pieno di cicche, oppure una sigaretta accesa. Variano le testimonianze. Comunque, secondo Buranov, è lei aver scritto questo testo, probabilmente, dice, a sua volta copiandolo dalla segretaria, o la fotieva, o la volodiceva, le due principali segretarie di Stalin, di Lenin, che l'hanno scritto sotto dettatura. Ma comunque sia, questo è questo inizio della lettera al congresso, in cui, Lenin prende posizione su una questione economica, il Gosplan, cioè sarebbe la commissione per la pianificazione statale. Il punto è però che Lenin sta dicendo sostanzialmente ha ragione Trotsky. Sulla questione del Gosplan ha ragione Trotsky, bisogna potenziare questo organismo. Tenete presente che in questa fase delicata Stalin non dorme la notte nel terrore che si formi il blocco Lenin-Trotsky. Cioè che si possono avvicinare, potrebbe essere un problema in questa fase in cui il potere di Stalin si sta ancora definendo, si sta ancora consolidando. E all'interno di questo scritto, a un certo punto Lenin dice, quindi potenziamo il Gosplan, i provvedimenti del Gosplan, andando incontro fino a un certo punto e a certe condizioni a quello che dice Trotsky. Quella è la versione ufficiale. Sul testo manoscritto, fino a un certo punto, a certe condizioni, non c'è. Quindi la frase è andando incontro a quello che dice Trotsky sul Gosplan. Uno può dire, ma sì, cosa vuoi che sia? Ma stai relativizzando un giudizio di Lenin su Trotsky. Trotsky ha ragione, sì, fino a un certo punto, a certe condizioni. No, nel testo originale il giudizio su questo provvedimento economico era chiarissimo. Ma forse il documento, che non è una falsificazione in senso tecnico, ma che a me mi ha ancora più impressionato, perché disegna un ambiente, disegna un quadro, disegna una situazione politica e storica, è la vicenda dell'articolo dettato da Lenin il 23 gennaio 23, un mese dopo. L'articolo è «Come riorganizzare l'ispezione operaia e contadina». Questo è un tema che Lenin sente molto. Avverte sempre di più la presenza di una burocrazia gigantesca, mostruosa, e cerca di mettere in piedi, di favorire l'istituzione di meccanismi di controllo. Uno di questi è l'ispezione operaia contadina, che possa limitare, reprimere gli abusi di questa burocrazia, in buona parte ereditata dal regime zarista. Uno è l'ispezione operaia contadina, un altro, ad esempio, è la commissione di controllo centrale. Comunque sia, in questo articolo Lenin dice a un certo punto che questa attività ispettiva della commissione di centrale di controllo non bisogna guardare in faccia chi che sia, e c'è una frase che c'è scritto, fosse pure il segretario generale o qualsiasi altro membro del comitato centrale. Indovinate chi era il segretario generale in quel momento? Era Stalin. Quindi questa attività ispettiva di controllo non deve guardare in faccia testualmente neanche il segretario generale. Cosa succede? Questo è veramente indicato. C'è un passo che veramente io trovo sconcertante. La sorella di Lenin, Maria Ulianova, prende la bozza e va alla Pravda, giornale. Stiamo parlando di Lenin, quindi non, che venga pubblicato non è neanche in discussione. Prende la bozza, la consegna al direttore, che allora è Nikolai Bukharin, che in questa parte fa la parte del cattivo, però Bukharin nel 38 finirà anche lui, torchiato e ucciso nella repressione stalinista. Lascia la bozza, tranquillamente, e testimone, da cui Preobrazensky, racconta cosa succede nella redazione della Pravda. Il terrore. Bukharin prende il telefono, blocca tutto e telefona a Stalin. Dobbiamo riunirci assolutamente, questo articolo è, non possiamo pubblicarlo. Ma se non puoi pubblicare l'articolo di Lenin, la situazione è difficile. Sarà malato, sarà semiparalizzato, eccetera, eccetera, ma è Lenin. Convocano il Politburo, cioè il massimo organismo, una parte selezionata del Comitato Centrale, e non solo il Politburo, anche dei dirigenti esclusi dal Politburo, ma comunque di altissimo livello, e discutono da farsi. Allora, premetto, come va a finire la storia? Verrà pubblicato il giorno dopo, il 25 gennaio, ma verrà pubblicato senza la frase, senza riguardo per il Comitato Centrale e per altri membri del Comitato, del Segretario Generale e altri membri del Comitato Centrale. Ma la cosa più sconcertante è che un dirigente che si chiamava Valerian Vladimirovich Kuibyshev, importante, non appartenente al Politburo, ma importantissimo, fa una proposta che non verrà accettata, ma la fa. Ma sentite, ma emergerà un'inchiesta che nel 24 verrà fatta un'inchiesta su questa proposta, lui confermerà di averla fatta e non subirà nessun provvedimento, ormai i tempi stavano cambiando. Ma se il problema è tranquillizzare il vecchio Starik, soprannome di Lenin, che tra parentesi aveva una cinquantina d'anni, cioè il vecchio va tranquillizzato, ci mette in imbarazzo, che problema è? È lì, isolato, circondato da un cordone di segretarie che rispondono anche a noi, eccetera, eccetera, che problema c'è? Confezioniamo una copia fasulla della Pravda con il suo articolo integrale e li abbiamo. E per il resto del paese va la Pravda vera. Lui è contento, noi siamo contenti e ci togliamo il problema. Rendetevi conto. E siamo solo nell'inizio del 23. Come già è arrivato il livello. Non passa, fortunatamente, questa proposta, passerà la pubblicazione manipolata dell'articolo di Lenin, ma almeno questa non passa. Ma è stata proposta, è stata formulata questa proposta. Di fronte a tutto questo uno può chiedersi, ma allora l'altro partito dov'è? Se questo gigante, questo Moloch, in grado di fare tutto questo, già esiste, già si mette in marcia, l'altro partito dov'è? L'altro partito, e lo dico sapendo la gravità di quello che dico, l'altro partito era sostanzialmente Lenin e qualche piccola forza intorno a lui. Lenin, la moglie magari, che per aver informato Trotsky di un tentativo di Lenin di avvicinarsi a lui sulla questione del monopolio del commercio estero, verrà grossolanamente insultata al telefono da Stalin. Non sappiamo esattamente cosa gli ha detto, ma fu talmente grave la telefonata che Lenin ruppe personalmente con Stalin su questa vicenda. E Lenin, anche perché lo vedremo, Trotsky non lo segue, in questa fase perlomeno non lo segue fino in fondo. E Lenin ha dalla sua due grandi risorse. Uno, il prestigio, enorme. E guardate che non è una questione da poco, perché il fatto che venga manipolati i suoi testi testimonia questo prestigio, cioè utilizzo il prestigio di Lenin, prodomo mia, cambiando quello che dice, ma non butto via il prestigio. Cerco di utilizzarlo. E l'altro invece è la chiarezza. Lei individua con una chiarezza impressionante i termini della lotta. Lenin non si fa frenare per un attimo del siamo tutti dello stesso partito, eh sì, però ci guardano gli altri intorno, i nostri nemici ci osservano, se ci spacchiamo, se ci laceriamo se ne approfittano, stiamo buoni. No, Lenin capisce subito la gravità dello scontro e a che livelli va combattuto. E questo aspetto, questa risorsa del micro partito Lenin emerge con chiarezza sulla questione georgiana. Consentitemi veramente di dire qualcosa su questo perché è fondamentale. Si capisce poco se non si inquadra la questione georgiana. La Georgia diventa poi bolscevica, viene conquistata dall'Armata Rossa nel 21. Il problema è che a un certo punto, nel dicembre 22, si formerà l'Unione Sovietica. Come disciplinare le repubbliche sovietizzate in questo nuovo organismo? Lenin è malato, Lenin è fuori gioco quasi, se ne occupa Stalin, che aveva anche un passato da commissario del popolo alla nazionalità, e lo fa col suo stile. Quindi manda il suo proconsole nel Caucaso, Orzonikidze. Orzonikidze anche qua, che esce con una figura bruttissima ed è così in questa vicenda. Ma poi anche lui morirà nel 37 in circostanze strane, un sospetto infarto, e quelli che prenderanno il suo posto, la nuova generazione staliniana, sono 10.000 volte peggiori di Orzoni Kizze, lo dico per onestà storica da questo punto di vista. Manda il suo emissario nel Caucaso e i criteri di annessione delle repubbliche caucasiche, tra cui la Georgia, sono molto duri, centralistici, autoritari. Il partito bolscevico georgiano, che è un partito vivace, combattivo, non ci sta. E inizia a fare dell'opposizione. No, non, per carità, vogliamo aderire a un organismo nuovo, unico, che proponga una strategia rivoluzionaria, ma vogliamo delle garanzie. Sappiamo com'è la Russia, sappiamo com'è... Cioè, vogliamo avere delle garanzie, un nostro spazio di indipendenza, eccetera, eccetera. Lo scontro diventa... Dire acuto è un eufemismo. Circolano accuse di minacce di morte durante le riunioni, fino a che non, il tappo non salta, si arriva a... In una riunione, probabilmente nella seconda metà di novembre del 1922, Orzoni Kizze perde la testa e percuote un comunista georgiano. Cioè, lo mena. Questo è grosso, cioè. Le vedremo di ben peggio negli anni futuri dello stalinismo, ma in quel momento, alla fine del 22, che si risolva tra comunisti ammazzate una questione politica, è qualcosa di indecente. La cosa viene all'orecchio di Lenin. Lenin, fino a quel momento, ovviamente, non è Lenin che sia un federalista in senso borghese, ha chiarissimo la necessità di centralizzare l'azione politica della Russia rivoluzionaria, quindi è favorevole a questa nuova formazione, ma è al contempo consapevole dell'importanza di questo passo. E mi spiego subito. Nei testi di Lenin, gli ultimi che detta, che riguardano la questione georgiana, emerge con chiarezza impressionante. Cioè, Lenin sa benissimo che dietro la nascente Unione Sovietica c'è tutta la storia dell'impero zarista. Non c'è niente da fare, c'è, incombe, dice Lenin, noi per riuscire a avere una strategia internazionale, per proporci in maniera decente al proletariato internazionale, noi dobbiamo rompere con questa tradizione. Se noi riproponiamo i vecchi sudici metodi centralizzatori oppressivi dello zarismo grande russo, mascherandoli solo con la bandierina rossa, è un disastro politico. Stiamo riproponendo lo schema zarista, grande russo, sciovinista, semplicemente col cambiamento di forma, di bandiere, di slogan. Dobbiamo rompere nei fatti. Quindi va bene che ci uniamo, ma alle minoranze etniche, linguistiche, che facevano parte dell'impero zarista, loro si chiamano gli allogeni, va riconosciuto tutti i diritti possibili, vanno messi al sicuro. Da chi? Da quel burocrate grande russo spregevole che è il burocrate tipico russo. Queste sono le parole di Lenin. Quindi bisogna garantire che non abbiano paura a unirci con noi e a unirsi in una strategia rivoluzionaria internazionale. Per quanto riguarda poi l'aggressione fisica al comunista georgiano, dirà, il fatto che si possa essere arrivati a questi livelli ad alzare le mani dice tutto sul pantano in cui siamo scivolati. Questo è il giudizio di Lenin. Lenin a quel punto inizia un braccio di ferro con Stalin per farsi dare i documenti della commissione d'inchiesta che si è formata. Astutamente Stalin mette a capo della commissione d'inchiesta da mandare in Georgia Dzerzhinsky. Dzerzhinsky, c'è una leggenda nera, il capo della CECA, cioè il capo della polizia politica, non era un tirapiedi di Stalin, era un bolscevico di vecchia militanza con un suo spessore, ma di origine polacca, come il cognome chiaramente indica, ma sulla questione nazionale era da sempre su posizioni antitetiche a quelle di Lenin. Quindi era per Stalin l'uomo giusto per andare a fare questa inchiesta. E alla fine, infatti, l'inchiesta non porterà ad alcuna sanzione disciplinare per Orzoni Kizze. Però Lenin a quel punto dice no, la questione è importantissima. La questione è importantissima e bisogna assolutamente difendere i georgiani, bisogna proporre un'altra formula di unione e contatta Trotsky. Siamo nel marzo del 23, data fondamentale, si avvicina il 12° congresso, sarà un punto di svolta del Partito Comunista Sovietico, il 17 e il 25 aprile del 1923, e Lenin si appresta a dare battaglia a questo congresso sulla questione georgiana. chiede l'aiuto di Trotsky, e Trotsky, va detto, con tutto il rispetto per Trotsky, che poi dimostrerà di fronte alla storia la sua avversione, la sua tenace, anche eroica, lotta allo stalinismo, ma in questa fase Trotsky si tiene indietro. Dice, prima per motivi di salute, poi per motivi politici, ma non aiuterà Lenin in questa azione. A rendere le cose, a far tracollare le cose, arriva intorno a metà marzo il secondo e definitivo ictus di Lenin, che lo toglie dal gioco, lo elimina dal gioco, fino alla morte del gennaio 24. Quindi è finita. Da questo punto di vista, la questione georgiana si chiude sostanzialmente in questo modo. Vi dicevo, l'altra dote che può mettere in campo il partito Lenin, qual è? È una grande chiarezza. È una grande chiarezza. Per certi versi i comunisti antistalinisti del Novecento non sempre, anche posteriormente, avranno la chiarezza di Lenin nell'analizzare lo stalinismo, nel capire come sia un nemico tout court, irriducibile, verso cui non bisogna avere freni, limiti, perché comunque è un po' dei nostri. No, Lenin ha una chiarezza estrema da questo punto di vista, ha capito i termini della questione. Nell'autobiografia di Trotsky, La mia vita, Trotsky racconta e dice, quando Lenin mi contattò per fare insieme questo blocco, il suo obiettivo era, testuali parole, distruggere la frazione staliniana, spina dorsale della burocrazia. Secondo le segretarie di Lenin, la Gliasser e la Fotieva, Lenin preparava, in vista del congresso, del 12° congresso a cui non potrà partecipare, una vera e propria bomba contro Stalin sulla questione georgiana. Precedentemente, il 6 ottobre del 22, in una lettera a Kamenev, scriveva Lenin: dichiaro guerra mortale allo sciovinismo grande russo. E anche l'analisi era cruda, non era per nulla un'analisi compiacente. C'è uno scritto che io sento sempre particolarmente, anche toccante, anche suscita una riflessione anche per certi versi dolorosa. Quando il 30 dicembre del 22 scrive e descrive le condizioni del partito, degli apparati sovietici, dice: siamo, la lotta è talmente dura, anche perché siamo ormai, come dire, in minoranza dentro 22, fine 22, siamo ormai in minoranza esigua nello Stato sovietico. Gli operai sovietici o sovietizzati in questa grande macchina ormai sono schiacciati da una marmaglia sciovinista grande russa e rischiano di finire, questa è l'espressione che mi ha sempre colpito, come una mosca nel latte. Se è presente, una mosca che affoga da sola in mezzo al latte, sommersa da queste presenze ostili. E siamo nel dicembre del 22. E mi avvio alle conclusioni. Qualcuno potrebbe anche, con buon senso, obiettare, sì, ma ci racconti lo scontro dei due partiti che passa attraverso le manipolazioni dei testi di Lenin anche, ma qua c'è un partito gigantesco fatto di, cioè, che incorpora a botte di 240.000 nuovi membri, che ha potenza economica, forza sociale, e da c'è Starik, il vecchio malato, prestigiosissimo e venerato, almeno a parole, capo della rivoluzione, ma non c'è un vero e proprio scontro. Sono due entità non rapportabili. Quantitativamente sì, sicuramente. Però la logica quantitativa, secondo me, non dà ragione dell'importanza di questo passaggio storico. Io ritengo che se oggi è possibile, ed è possibile ancora, rivendicare il marxismo come teoria rivoluzionaria, come teoria delle classi sfruttate dal capitalismo in grado di indicare una strategia politica di riscatto, se oggi il marxismo può essere ancora vivo e non è stato completamente soffocato nel braccio mortale dello stalinismo, se oggi noi siamo ancora in grado, e lo siamo in grado, di contrapporre all'ideologia borghese che vorrebbe il marxismo finito sotto le macerie dell'URSS e del capitalismo di Stato, se oggi noi possiamo fare tutto questo, e anche perché all'inizio, per prendere a presto il titolo del bellissimo e fondamentale libro di Moshe Levin, c'è stata l'ultima battaglia di Lenin. Una battaglia, questa è l'ultima battaglia, una battaglia estrema sicuramente, disperata, ma che ha avuto, secondo me, un grande ruolo fondante. Grazie. qualcuno che vuole dare un contributo, vuole intervenire, ben volentieri. Stando in Russia negli ultimi 9 mesi, devo dire che l'eredità di Stalin è rimasta ancora ben presente, perché più di uno, quando lavori in cantiere, c'hai tutti, no? C'hai i caucasici, c'hai i polacchi, i lettoni, c'hai tutta la gente. E più di un russo parlando dice no, perché e io non ho mica sangue asiatico o ebreo, no? Cioè sono un russo, non so se rendo l'idea. Quindi questa cosa, e sono, guarda caso, erano quelli che grosso modo occupavano le posizioni, come dire, di comando, no? All'interno del cantiere, fare intermedi, quelli. È un'eredità che ha ancora una sua ragione d'essere in certi. In certi ambiti, al contrario degli altri, poi i proletari, sai com'è, che siano di qua, non è che un operaio daghestano sia molto diverso da un operaio italiano, insomma, alla fine quelli che occupavano le posizioni inferiori, guarda caso, erano di altri, venivano da altre parti, pochi russi, ma per dire. È un'eredità che pesa ancora. Sì, io anche se più che definirla un'eredità dello stalinismo, mi sembra un'eredità che lo stalinismo ha ricevuto, in certi casi rinvigorito dietro la patina di internazionalismo formale, ma è qualcosa che appartiene a una storia russa molto antica. Appartiene allo zarismo, sicuramente. Tra parentesi, come tanti aspetti dello stalinismo in realtà hanno una storia molto antecedente, ecco. Non voglio fare dei paralleli così schematici, ma insomma, pensare come spesso viene fatto, che lo stalinismo abbia inventato ex novo un controllo poliziesco politico capillare. Cioè, John Reed, quando va nei Balcani, racconta cosa voleva dire essere, insomma, sorvegliati dalla longa manus della polizia zarista. Non so, il controllo politico è anche antecedente ai Romanov, per certi versi, una costruzione capillare di un controllo politico. Quindi lo stalinismo eredita molto da questo punto di vista, lo rielabora in maniera più o meno, secondo delle fasi che attraverso, più o meno esplicita. Ormai è risaputo, lo dicono anche dei programmi divulgativi sulla storia, ad esempio, che lo scoppio della seconda guerra mondiale, in quel momento di crisi, diciamo, lo stalinismo attinge a piene mani a tutto il retaggio ortodosso, patriottico, riscopre, fa anche dei cambiamenti, ritornano i gradi magniloquenti sull'uniforme degli ufficiali, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo di aver visto un manifesto della grande guerra patriottica, come viene chiamata la seconda guerra mondiale, in cui c'erano tre combattenti che guidavano in maniera mistica, in maniera ideale, i soldati russi, ed era uno, era Chapayev, che è un famoso combattente della guerra civile, dell'Armata Rossa, lì è comprensibile, uno è Alexander Nevsky, l'eroe medievale, e il terzo è il generale Suvorov. Cioè, il generale controrivoluzionario delle guerre giacobine e napoleoniche, che viene arruolato tra i nuovi santi patroni dell'Unione Sovietica in lotta con la Germania. Quindi è vero, cioè, quindi non mi stupisce che ci sia. Sì, ma la casa di Suvorov a Leningrado, cioè, è stata restaurata e rimessa in ordine proprio negli anni. Cioè, c'è proprio un museo, eccetera. Ma antecedentemente, secondo gli anni 60, 50, ah, sicuramente. Una roba del genere. Sicuramente. Cioè, impressionante questa roba. E lo Smolny invece è un qualcosa di ingessato. tante belle lapidi. Io ti domanderei della fortuna internazionale o meno di questo libro. Che rispondenza ha trovato? Questa è una bella domanda. Allora, questo libro è strano perché ne parlavo prima della riunione, dell'incontro. Non ci risulta neanche un'edizione russa. Non ci risulta. Hai chiesto uno che lavora nell'ambito di editoria che ho conosciuto se per caso c'era nei suoi elenchi, se c'era un... Comunque, non esiste un'edizione russa di uno storico molto russo, questo qua viene dall'Accademia delle Scienze dell'URSS, eccetera, eccetera. La prima e ci risulta unica edizione è questa qua del 94 americana. Che abbia avuto una grande eco non è vero, anche perché lui appare abbastanza isolato, nel senso che fa uno studio molto serio, ma in cui non cita praticamente delle fonti che pure ci sono su questo tema internazionali. Quindi appare uno scritto molto poco legato agli ambienti anche accademici internazionali. In Italia, lo accennavo prima, ha avuto invece una certa eco, più probabilmente che in altri paesi, perché è entrato, diciamo, nel raggio di azione di uno storico molto importante, molto, molto anche con degli ambiti molto solidi che lo circondano, come Luciano Canfora, che l'ha ripreso nel suo scritto La storia falsa e l'ha ripreso poi in moltissime conferenze che ha fatto in giro, eccetera, eccetera. Quindi secondo me, se posso accennare un giudizio parziale e da prendere con le molle, non ha avuto un grandissimo eco internazionale, a parte questa pubblicazione, che mi sembra una sola edizione, non c'è stata nessuna ristampa, in America, e un eco invece un pochino più forte in Italia. Questo. Segnalo, visto che hai citato Vorkut, che qualche settimana fa c'è stata una serata qui in Conchetta in cui si è dato conto di un viaggio a Vorkut alla ricerca delle tracce del Gulag, con fotografie e una narrazione parecchio interessante che poi è continuata scendendo con una presa di contatto con i forti movimenti ecologisti che sono attivi nella regione, in quanto c'è un mega progetto di trasformare quella zona praticamente nella mega discarica della pattumiera di Mosca, e quindi c'è tutto un giro. Ecco, quindi questa serata è stata registrata come tutte quelle che vengono fatte qui, quindi chi è interessato la può ascoltare. Poi dicono che si pronunci Vorkuta, c'è dibattito sulla questione. No, ma sulla pronuncia. Sei appena dottorato. Vorkuta mi sembra strano in Siberia, però può essere. Non è in Siberia. No, non è in Siberia. La Repubblica Autonoma del Congo. Sì, però può essere, però può essere. Comunque è stato parecchio interessante quell'incontro. Io il Borgo. E tra l'altro oggi così come è stata città simbolo del Gulag staliniano, appunto, di essere soprannominata la capitale del mondo, perché ce n'erano di tutte le nazionalità, mi sono 47 nazionalità diverse, eccetera. Oggi è città simbolo della deindustrializzazione, perché la gran parte delle miniere del carbone pregiato sono state chiuse per motivi speculativi, è una città che sta morendo, ma in un posto che non è propriamente accogliente, quindi una città che muore, sempre l'impressione, una città che muore da quelle parti ne fa ancora di più. Sono posti piuttosto pesanti. riuscivo a lavorare lì mediamente prendo un salario che è 5 volte quello normale per lavorare in quella zona. Sì, sì, così era anche per i minatori. Cioè, nella sì, sì, ma è normale, cioè lì però non resiste. È scritto bene tutto la... Non resisti più di qualche anno, ma proprio veramente pochi anni, perché è una condizione di vita veramente pesantissima. Ecco, poi un'altra mezza domanda, è un domandone di quelli per fare la vita così. Se da una parte c'è questo nuovo partito così grosso, efficiente e non con l'idea chiara di dove andare a parare, e dall'altra parte c'è il partito Lenin, sorge spontanea la domanda come si sia arrivati a quel punto, che chiaramente non può stare in un'analisi filologica come quella che hai descritto, che è importante, però non si può leggere quelle prese di posizioni di Lenin senza domandarsi ma come cazzo ha fatto a finire appunto icona isolata, ecco, su questo piano sia la ricerca che l'analisi teorica secondo me deve andare avanti ancora molto. È un pezzo centrale della Occidente. Ovviamente non ho assolutamente la pretesa di dare una risposta. Diciamo, quello che posso... proprio quello di stare sulle carte, no? Esatto. Però uno leggendo anche soltanto sentendo... certo, legittimo. Io quello su cui noi come redazione, come rivista, come militanti, ci siamo interrogati, abbiamo anche cercato di approfondire, hai ragione tu, è un passaggio centrale che merita ancora più che mai un approfondimento, una riflessione politica e teorica. Quello che noi abbiamo così messo a fuoco, diciamo così, è che questo processo che poi si evidenzia con questo isolamento è qualcosa che parte prima. Ci sono alcuni... parlo di scritti anteriori di Lenin, non di molto ma anteriori, cito memoria quindi sarò impreciso, in cui Lenin sostanzialmente fa delle affermazioni che sono anche qua sconvolgenti, non è Lenin che detta ancora, è Lenin precedente, ad esempio parlando di un bacino, mi sembra del Donetsk se non vado errato, dice ma lì si stanno dando una dirigenza da soli le grandi imprese estrattive che dovrebbero essere nostre. Cioè, come mai queste imprese che sono nostre incominciano a muoversi in maniera che ci sfugge, o meno sfugge a Lenin? In un altro scritto dice che la macchina sovietica è come se sia guidata da una mano invisibile, da una mano fantasma. L'impressione è che l'impressione è questa, che la presa del potere bolscevico poteva esistere come esperienza rivoluzionaria solo nella misura in cui si univa in tempi rapidi a una rivoluzione internazionale. Questo è l'impressione. Il non unirsi a una rivoluzione internazionale e la necessità di rimanere in attesa ha prodotto logicamente delle forze economiche, degli sviluppi di forze economiche che hanno, secondo noi, in maniera rapidissima scavato dall'interno il partito. Da questo punto di vista, per quello gli ho accennato, non è che Stalin è il cattivo, cioè probabilmente Stalin è l'espressione contingente più puntuale di quelle forze che stanno sempre di più prendendo il sopravvento. Guardate che dal punto di vista economico, spesso, anche se è scandaloso dirlo, ma lo dico con rigore, insomma, storico, dal punto di vista economico, della politica economica, spesso l'ambito trotskista e Trotsky stesso non è distantissimo da Stalin, talvolta. Quindi l'impressione è quella che in tempi molto più rapidi di quando il dibattito tra i bolscevichi lasciasse presagire, queste forze economiche hanno di fatto preso il controllo del partito, emarginando drasticamente quei soggetti che non erano più in sintonia con questo percorso. Ripeto, so benissimo, ma questa non è una risposta, lo so, è un binario secondo me lungo cui bisogna muoversi per arrivare forse a una risposta, ecco.